nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta, bentornati nella settimana forse più pesante, più difficile degli ultimi mesi. Insomma, siamo stati e siamo tuttora chi preoccupato, chi coinvolto dalla questione coronavirus, ma in questa puntata cercheremo di prenderla senza parlare di coronavirus, perché parleremo di scienza, che è l'elemento fondamentale alla quale guardiamo tutti con grande attenzione e anche con grande speranza, proprio perché dalla scienza che possono venire le risposte che diluiscono, se non dissolvono, le nostre ansie. E a proposito di ansie, la settimana scorsa abbiamo parlato dei danni che il multitasking, con questa costante pressione a fare, produce a noi e al nostro povero cervello. E all'828 1212, che è il numero al quale potete lasciare i vostri messaggi, ne sono arrivati parecchi. E a differenza di quel che molti credono, che cioè Nessuna è Perfetta è ascoltata solo ed esclusivamente dalle ascoltatrici, invece no, un sacco di ascoltatori maschi ci hanno detto: oh, ma non è che multitasking è la fregatura inventata da noi uomini per fare a voi donne tante cose tutte insieme? Perché? State a sentire. Buona domenica, cara signora Latella. Ho appena finito di ascoltare la sua trasmissione e sorrido. Si parlava di donne multitasking. Beh, sono appena rientrato a casa dopo aver portato il mio figliolo alla partita di calcio. Ho fatto la spesa e ora sto cercando di mettere insieme qualcosa per pranzo prima di uscire da casa e volare a riprenderlo. Mia moglie, in montagna a sciare con le amiche. Evviva le donne! Evviva sua moglie, caro ascoltatore, che fa benissimo a prendersi qualche giorno in montagna con le amiche, e poi spero che toccherà anche a lei, naturalmente. Ma non era il solo nostro ascoltatore che voleva rimettere i puntini sulle i a proposito del multitasking e di quanto pesi sulle spalle di noi donne. Sentite anche questa. Sono Giuseppe dalla Sardegna, io, chiamiamolo così come lo chiamate, il multitasking. È da sempre che lo faccio, sono un padre di famiglia, quindi lavoro, ho i miei impegni, anche i miei sia di divertimento che di lavoro. Non posso fare a meno di trovare questo momento anche durante la notte, quando mi giro e mi rigiro e penso un pochino a riordinare e più che altro la giornata che ho appena concluso e quella che dovrò affrontare. Sì, il multitasking affolla anche le nostre notti. Pure a me succede, caro ascoltatore, di stare lì magari a metà della notte a mettere in ordine l'agenda e i tanti impegni. Il problema poi è riaddormentarsi, però la domenica, lo diciamo da 5 anni, almeno la domenica il multitasking no, né di giorno né di notte. Ma torniamo al tema di questa puntata. Lo dicevamo, in questa settimana avete sentito i pareri di tanti scienziati ed è alla scienza che si guarda in questi giorni, proprio nella speranza che appunto ci faccia capire meglio che cosa è giusto fare di fronte a un'epidemia di cui si conosce poco, un virus, il coronavirus, di cui non sapevamo nulla fino a poco fa. Ma a Nessuna è Perfetta vogliamo parlare di scienza e di donne che possono essere role model per quante studentesse, scolare, magari pensano di affrontare una carriera in quel campo e sono timorose perché bombardate dal pregiudizio, le scienze, la matematica, la medicina, sono temi ancora considerati maschili. Non è così, l'avete visto anche con le tante scienziate che sono state chiamate a dire la loro in TV, in radio, in questi giorni. Qui a Radio 24 ne avete sentiti moltissimi, la nostra collega Nicoletta Carbone ne ha parlato e ha parlato con tante e tanti di loro, ma in questa domenica noi vogliamo in generale parlare di donne e di scienza, proprio nella settimana in cui l'America, per esempio, ha detto addio a Katherine Johnson, l'ultracentenaria scienziata della NASA che con i suoi calcoli contribuì a portare l'uomo nello spazio. E nel 2015 il presidente Barack Obama attribuì un riconoscimento di grandissimo rilievo per gli americani, The Medal of Freedom, la più alta onorificenza degli Stati Uniti. Italia c'è ancora molta strada da fare, la presenza femminile nei settori chiave, perché poi sono i settori chiave del futuro, non è ancora massiccia come dovrebbe essere. La percentuale di donne che occupano posizioni tecnico-scientifiche è del 31,7% contro il 68,9% degli uomini, una percentuale tra le più basse nei paesi OCSE, proprio per la diffidenza che le stesse famiglie contribuiscono a coltivare e diffondere rispetto al fatto che le ragazze scelgano queste materie, questi percorsi di studio. Cercheremo di capire perché, lo chiederemo alle donne di scienza che saranno ospiti di questa nostra domenica. Intanto vi ricordo l'828 12 12, il numero della nostra casella vocale dove potete lasciare i vostri messaggi, 828 12 12, e noi torniamo tra pochissimo. Nessuna è perfetta. Eccoci di nuovo a Nessuna è perfetta, e per introdurre il tema di questa domenica do il benvenuto alla professoressa Maria Laura Costatino, presidente del corso di laurea MedTech School e docente di ingegneria biomedica del Politecnico di Milano. La collaborazione tra il Politecnico e la Humanitas University ha dato vita a un nuovo corso di laurea in medicina e chirurgia, interamente in lingua inglese, da cui nascerà una nuova figura professionale. Buona domenica, professoressa, e le posso chiedere che cos'è e come si svolgerà questo nuovo corso di laurea? Sì, certo, buongiorno a lei e buona domenica. Dunque, la ringrazio molto per questa domanda, perché in effetti abbiamo creato qualcosa di estremamente nuovo e, devo dire, unico al mondo al momento attuale. È nato proprio da questa collaborazione tra Politecnico di Milano e Humanitas University. L'obiettivo che il corso si propone è quello di creare un medico a tutti gli effetti, quindi un medico chirurgo a tutti gli effetti, che potrà iscriversi a qualsiasi specialità di medicina al termine del percorso, e che però al contempo abbia anche acquisito una quantità di conoscenze relative all'ingegneria, in particolare in ingegneria biomedica, per cui al termine di questo percorso lo studente conseguirà la laurea in medicina e chirurgia e anche la laurea di primo livello in ingegneria biomedica rilasciata dal Politecnico. Perché sarà utile a questa nuova figura di medico avere anche una formazione da ingegnere? Devo dire che ormai le tecnologie stanno permeando totalmente l'ambiente clinico, medico, di applicazione alla salute, alla medicina, alla gestione, alla cura, alla terapia. Dunque è estremamente importante che il medico sia consapevole di quale sia il contenuto tecnologico profondo delle apparecchiature, per poter utilizzare al meglio le apparecchiature, sapendo che cosa queste, cioè, che cosa queste apparecchiature sono in grado di proporre. Certo, perché ormai si possono realizzare interventi chirurgici a distanza grazie alla tecnologia e non è solo questa, è una delle varie novità che sono state introdotte. Professoressa Costantino, ci sono molte studentesse iscritte a questo nuovo percorso, questa nuova figura professionale, diciamo, di medico ingegnere? Ci sono sì, ci sono parecchie studentesse, abbiamo diciamo una percentuale, diciamo un 45% donne, 55% uomini. Beh, interessante. Quindi è interessante. È analoga, forse leggermente inferiore alla scuola di medicina, medicina e chirurgia, però diciamo è in linea con questi numeri. Una cosa che mi incuriosisce, professoressa Costantino, è che in questo percorso che è molto tecnologico, è una formazione da medico ma con questo innesto di ingegneria che è molto interessante, però è anche previsto un corso in qualche modo, diciamo, filosofico. Perché gli elementi di cultura umanistica che sempre hanno accompagnato la formazione del medico sono utili anche agli ingegneri. Sì, senz'altro, soprattutto, cioè, diciamo, in qualunque contesto dell'ingegneria l'aspetto etico nella professione è fondamentale. E ormai si è assolutamente capito che l'importanza di questo aspetto. Di fatto al Politecnico, adesso senza parlare di Medtech, ma già al Politecnico nell'ambito della scuola di ingegneria e comunque anche delle scuole di dottorato vengono offerti corsi di bioetica, perché è necessario che i laureati, i dottorandi o comunque gli studenti in generale di ingegneria acquisiscano consapevolezza e competenza anche in questo senso, perché l'utilizzo della tecnologia può diventare assolutamente complesso e è bene che lo studente abbia ben chiaro quali siano i limiti etici della professione e dell'applicazione di tutte le tecnologie che si hanno a disposizione. Professoressa Costantino, lei che percorso di studi ha seguito? Da bambina, perché il tema di questa nostra puntata, e non è la prima che Nessuna è Perfetta dedica a questo argomento, è l'importanza che le studentesse, le scolare già dalle elementari, avvicinino le materie scientifiche, le cosiddette STEM, senza timore, perché c'è una assoluta preparazione nelle donne e c'è un grande bisogno che le donne studino materie scientifiche e si laureino in ingegneria, in fisica, in matematica, non sempre solo nelle materie umanistiche che per decenni hanno accompagnato le loro scelte, soprattutto all'università. Allora sono curiosa di conoscere il suo percorso. Certo, io non posso che essere d'accordo con lei. Io ho fatto, vabbè, ovviamente le scuole elementari, le scuole medie, poi mi sono iscritta al liceo scientifico, e all'epoca al liceo scientifico c'era la possibilità, ed era l'unico classico non aveva questa possibilità, di studiare inglese per 5 anni. Per cui il classico inglese si studiava soltanto al ginnasio, così la lingua straniera in generale. Dopo il liceo ho deciso di iscrivermi a ingegneria e peraltro mi sono iscritta a ingegneria meccanica, che non era popolata da molte donne. No, stiamo parlando di che anni, professoressa Costantino? Dunque, io mi sono iscritta all'università nel 76. Ho fatto la maturità scientifica, conseguito la maturità scientifica a luglio del 76 e a novembre 76 mi sono iscritta all'università. Quante eravate di donne ingegnere nella sua facoltà? Allora, a ingegneria meccanica nella mia sezione, che era lo scaglione dall'A alla L, all'epoca peraltro, scusi l'inciso, ingegneria meccanica aveva i primi due anni condivisi con ingegneria civile. E nella mia sezione dall'A alla L, nel mio scaglione, era su 350 persone in aula. Eravamo 3 donne, due di ingegneria civile e io di ingegneria meccanica. Che cosa, che carriera hanno intrapreso poi le sue compagne di studi di allora, se è rimasta in contatto con qualcuna di loro? Allora, non, una delle due di ingegneria civile so che ha abbandonato, l'altra non so più cosa abbia fatto. Nell'altra sezione, cioè dalla L alla Z, c'erano due ingegnere meccaniche, due studentesse di ingegneria meccanica e solo una civile. Le due di ingegneria meccanica hanno tutte e due optato per ingegneria biomedica. No, scusi, erano tre. Erano tre. Due hanno optato per ingegneria biomedica, come me, e un'altra per l'indirizzo invece tecnologico. Però di lei ho perso le tracce, direi. Ecco, parlando ai genitori, alle mamme che ci ascoltano in questo momento e che magari hanno figlie che sono in un momento di scelta per la facoltà universitaria o anche per l'indirizzo della scuola superiore, che consiglio darebbe, professoressa Costantino? Ma ingegneria non ha nessun problema per le ragazze, cioè non pone difficoltà particolari, l'importante è avere voglia di farlo. Io quello che dico sempre è che non esistono come dire, limitazioni per la popolazione femminile relativamente agli ambiti di studio, non devono esistere. Perché la propensione allo studio, la propensione a un certo tipo di tematiche è del tutto condivisibile tra uomini e donne. Per cui direi che assolutamente non ci e deve poi, essere ecco, timore. Il corso che voi state organizzando in collaborazione tra Politecnico di Milano e la Humanitas University ha il vantaggio di essere interamente in inglese, che apre poi le porte anche a tutta una serie di passaggi a altre università e l'apertura di un mondo di lavoro, perché come sappiamo il lavoro bisogna cercarselo anche oltre i confini. Ormai è così. Grazie alla professoressa Maria Laura Costantino, presidente del corso di laurea di cui abbiamo parlato, in collaborazione appunto tra Politecnico e Humanitas University, e buona domenica. Grazie a lei, arrivederci. Radio 24 vi accompagna in tutte le vostre passioni. Ogni domenica pomeriggio con Passione Domenica, la domenica che ami vivere. Passione Domenica. Si inizia alle 14.30 con Passione per gli altri, cronache dal sociale raccontate da Cristina Carpinelli in Diario di un giorno. Alle 15, Passione in viaggio. Valeria De Rosa vi porta in giro per il mondo con Globetrotter. Alle 15.30 è l'ora della Passione in verde, con Roberta Pellegatta e il suo giardino segreto. Alle 16, con tuta e scarpe, inizia Passione in movimento. Si parte in bicicletta con Alessandra Schepisi in A ruota libera, poi di corsa con Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino in Personal Best. E infine, con Passione in gioco, Dario Ricci vi racconta i miti e le verità dello sport in Olimpia. Alle 17 al via Passione in campo, la cronaca delle partite in diretta con Carlo Genta, Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano in Tutti convocati. E per chiudere alle 19 Gegè Telesforo e il suo Soundcheck vi aspettano in Passione musica. Passione domenica con Radio 24, la domenica che ami vivere. Radio 24, la passione si sente. Nessuna è perfetta. Eccoci, insomma, sono stati giorni pesanti, sono stati giorni difficili, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Sentiamo tutti il bisogno, no, di respirare un po', di guardare anche al lato bello della vita. E il lato bello della vita include anche le nostre Sunday Girl. La Sunday Girl di questa domenica ha una voce meravigliosa. Bentornata, bentornata a Nessuna è Perfetta. Buona domenica, Irene Grandi, 25 anni di carriera. Mica male. 25 anni di carriera festeggiati volati l'anno scorso e adesso invece reduce dal successo di Sanremo con la sua Finalmente scritta da Vasco Rossi e pronta a partire con un tour il prossimo 5 marzo. Sì, infatti, un festeggiamento appunto che non voleva finire nell'anno adibito al 25ennale, quindi alla fine dell'anno mi è arrivato questo regalo da parte dell'amico Vasco, ormai insomma diciamo che comincia a essere tanti anni che abbiamo segnato le nostre tappe anche con qualche collaborazione insieme, questa è la terza canzone che facciamo insieme. E è una canzone che proprio mi piace tantissimo perché Finalmente io è una scoperta di sé, una canzone che dà una grande carica positiva proprio in questo periodo in cui ne abbiamo tanto bisogno. Abbiamo bisogno, sì, Irene. Ecco, la positività insomma no, è la prima cosa che ci tiene anche sereni e anche in salute, secondo me, cioè aiuta molto perché appunto è un'energia, noi siamo fatti di energia, no? E questa canzone veramente a me me l'ha dimostrato tantissimo, perché mentre proprio la canto mi sento riempire di gioia e di come forza. Comincia? Cioè, puoi farci proprio un accenno dell'inizio? Così così inizia: perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita, gli amori miei buttati alla rinfusa, diciamo che c'è una certa ironia, sì. Non mi ricordo mai dove li metto, gettati con la lista della spesa nell'ultimo cassetto, insomma un po' sulle chiavi di casa chissà in quante ci ritroviamo, ma sugli amori buttati in un cassetto magari no, per fortuna non siete tutte come me. Irene Grandi, Finalmente io è anche l'inno del ricominciare, io credo tantissimo nel ricominciare, nel riaprire capitoli nuovi della vita, nel riaprire capitoli nuovi anche della vita di un paese dopo una fase difficile. Questo paese, l'Italia, è stata capace di ricominciare, penso agli anni del dopoguerra o anche a quelli successivi al terrorismo, siamo stati capaci non solo di rimboccarci le maniche, come si dice sempre, ma proprio anche di ripartire, e tante donne ripartono anche nel loro privato. Qual è il bello del ricominciare? Faticoso, ma poi da tanta soddisfazione. Da tanto, e poi soprattutto secondo me c'è bisogno di capire quali sono veramente le nostre vere priorità, i nostri veri bisogni e anche quei talenti che ci fanno felici, no? Che ognuno di noi ha un talento, una passione, un qualcosa che ci fa sentire vivi, no? Quando la facciamo, e quello secondo me è una bellissima arma che abbiamo contro i problemi, i dubbi e le cose brutte della vita, perché quando ci immergiamo in qualcosa che ci piace davvero è come se il valore diciamo del sentimento che proviamo è sempre grandissimo, è sempre importante, ci dà la forza anche proprio di ricominciare. Ecco, le nostre ascoltatrici ci raccontano molto di quello che le aiuta a stare bene. La domenica scorsa avevo appunto chiesto a che cosa non rinuncereste mai, e vorrei farti sentire quello che ci ha detto una delle ascoltatrici che ci ha lasciato il suo WhatsApp vocale a proposito appunto delle due cose alle quali non rinuncia durante la settimana. Sì, buongiorno Maria. Ma a proposito di cose alle quali non rinuncio, parlo al plurale proprio perché sono più di una, ma direi il cinema una volta alla settimana con un'amica e yoga il sabato mattina. Devo dire che mio marito si è subito reso disponibile, diciamo, a sostituirmi con i figli, proprio perché si è accorto di quanto mi facciano stare bene queste due cose semplici. Buona domenica e grazie. Anche sentire una bella canzone fa stare bene, ma qual è la cosa alla quale per stare bene tu, Irene Grandi, non rinunceresti mai? Mi unisco all'ascoltatrice perché anche io faccio yoga. E a me mi ha proprio cambiato la vita, diciamo in un certo modo, perché cambia proprio il rapporto che tu hai con te stessa e con i tuoi pensieri e problemi. Cioè è come fare un passo indietro a volte dall'identificazione con i momenti difficili e guardare come se stessi da fuori, e sapere che questo fatto che ci si può guardare da fuori ci fa un po' staccare, allontanare da quel pensiero magari che rimugina, che ritorna, che rotola nella mente senza controllo, e ci aiuta a riprendere un po' la gestione della nostra mente. E quindi veramente lo yoga è una grandissima scienza che adesso va anche di moda, ma meno male, ogni tanto va di moda anche qualcosa che fa veramente bene se uno la conosce approfonditamente. Quindi lo studio dello yoga è un mondo davvero che per tutte le donne, sono sicura, è una grande risorsa. Ma quando sei in tour, per esempio adesso che lo comincerai a marzo, come fai? Fai yoga in albergo? Guarda, prima quando hai aperto la trasmissione hai parlato di respirare. È proprio, per esempio, una tecnica yoga è il pranayama, che è la respirazione. E per esempio prima dei concerti a me serve tantissimo ritirarmi anche solo 10 minuti dallo staff, sai, dalla situazione un po' confusionaria a volte che c'è anche dietro un backstage, e in quei 10 minuti concentrarmi sul mio respiro, seguirlo, sentire che si approfondisce, non è quel respiro basso, corto, no? Quello veloce dell'ansia, ma che se uno invece si mette lì a guardarlo riesce ad approfondire il respiro, a fare delle piccole anche trattenute di respiro che ti assicuro proprio ti ridanno tanta energia e tanta chiarezza della mente. Ecco, ma dopo 25 anni di carriera, Irene Grandi, c'è ancora l'ansia del palcoscenico, cioè il timore di non riuscire a scaldare il pubblico, o che ne so, la paura che a un certo punto la voce ceda per qualche attimo, oppure no, uno dice beh, dopo 25 anni vado sul palco e non ho più paura. Naturalmente ci sono alcuni palchi, come penso quello del Circo Massimo quando aprirò il 19 e il 20 giugno il concerto di Vasco Rossi, che un pochino di ansia me la metterà. Perché insomma, no, sono magari 100.000 persone, insomma fanno un certo effetto, si sente una botta proprio di energia forte da parte del pubblico, quindi bisogna essere forti anche per sostenerla. Ci sono invece palchi che sono anche più allegri e semplici, come per esempio spero quello di questi club tour che farò a breve, perché è una situazione quasi più intima, quasi familiare, in cui ci sono poche persone che saranno magari anche i miei fan più vicini, più quelli più che non si perdono un concerto di Irene Grandi neanche a morire. Esatto, e quelli sai sono quasi più feste, che allora lì magari c'è meno tensione, quindi dipende un po' dalla situazione, però devo dire che poi il momento dopo che sei salito sul palco e cominci a cantare, lì ecco subentra, diciamo, l'energia del canto, della musica, anche del mio talento davvero, che in quel momento si esprime, come dice la mia stessa canzone, e quel momento è magico, è intoccabile, e è anche un momento proprio che non hai più nessuna paura, sei solo lì, sei solo in quel momento. Che bello. L'ultima cosa che ti voglio chiedere, tornando alle parole della canzone che appunto Vasco Rossi ha scritto per te, Finalmente io, e a quegli amori chiusi nei cassetti, tu hai compiuto 50 anni a dicembre, com'è adesso il tuo rapporto con l'amore? Che cosa hai imparato ricominciando? Perché comunque ultimamente ho ritrovato un grande amore di quando ero giovane, e ci siamo rimessi insieme, ed è un amore anche, diciamo, appunto più maturo, più consapevole. Quindi, dopo quanti anni? Cioè, eravate, dopo 30 anni, dopo 30 anni vi siete ritrovati, che bello. Quindi insomma una storia anche molto romantica, devo dire che già da un bel inizio, no? Anche quasi un grande sogno che si avvera. Tutti un po', no? Sognano, come nel film come l'ultimo proprio film di Muccino, Gli anni più belli, in cui una coppia si rimette insieme. Adesso non voglio dire di più per chi non l'ha visto, ma che bello. Sì, molto bello, però ecco, devo dire che è molto importante, quando siamo più grandi siamo anche più formati e ci si rende conto che abbiamo bisogno ognuno di noi anche dei propri spazi indipendenti uno dall'altro, cioè ci si sostiene, ci si vuole bene, ci si aiuta nella vita e ci si appassiona anche alla vita dell'altro, però è anche secondo me importante lasciarsi degli spazi proprio in cui ognuno deve esprimere la persona che è, e non sempre siamo uguali. Certo, anzi, ecco, mai, questa, no? Questo con la maturità si capisce, la necessità di dare spazio all'altro senza gelosie, senza bronci, sì, sai, perché dicendo tu non stai abbastanza con me. Cioè, non stai mai con me, no? No. Quella cosa lì in cui è facile cadere da parte di tutte e due, anche te lo dico, io l'ho vissuto sulla mia pelle perché tendevo a fare così, e invece poi ho capito che si sta molto meglio quando invece si lascia spazio uno all'altro, anche perché poi io lo desidero il mio, quindi lo devo sapere anche lasciare all'altro, no? Molto saggio, che saggia che è diventata questa Irene Grande, di proprio col suo, sì, guarda, col suo testo, finalmente io, cioè, c'è una coincidenza. Consapevolezza, lo spazio, infatti il lasciare un punto di rigenerazione all'altra persona, che magari si rigenera a giocare a qualche sport, oppure andare in bicicletta. Non sentirsi privati del tempo dell'altro. Grazie a Irene Grandi, che comincia ora appunto il grandissimo club tour a partire dal 5 marzo. In bocca al lupo per il tour. Grazie. E buona domenica. Un abbraccio, buona domenica a tutti. Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa. Non mi ricordo mai dove li metto. Gettati con la lista della spesa nell'ultimo cassetto. Disordinata come una risata e anche più viva della vita. Innamorata della libertà. Ho perso ogni pazienza e ogni fragilità. Da sempre arrabbiata, da sempre sbagliata. E ancora così. Perdonami. Ok, se vuoi ti chiedo scusa, anche se non mi va. Innamorata della libertà, ho perso ogni pazienza e ogni fragilità. Ogni fragilità. Se sono nervosa, se sono confusa, se non ti ho mai detto sì. Se vuoi fare sesso, facciamolo adesso, qui. è perfetta. Eccoci con l'ultima parte di Nessuna è perfetta e continuiamo a parlare di donne e scienza in una settimana in cui la scienza, è inutile ricordarlo perché chi segue Radio 24 ha avuto modo di ascoltare bene tutti gli interventi che tutte le trasmissioni di Radio 24 hanno puntualmente offerto per capire che cosa sta succedendo attorno alla questione coronavirus. Ma donne e scienza, noi ce ne occupiamo dal punto di vista delle prospettive di lavoro che offre il futuro per tante ragazze che oggi magari si pongono il problema di quale facoltà o di quale istituto scegliere. Bene, benvenuta, buona domenica, Anna Menini, professoressa di fisiologia alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, una scuola che ha sede a Trieste, dove dirige anche il laboratorio di trasduzione olfattiva. E tra l'altro la professoressa Menini è anche presidente del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità. Professoressa, che cos'è questa trasduzione olfattiva? Perché appunto parlando di scienza e dando a chi ci ascolta, alle mamme, ai padri, ma anche alle ragazze che ci ascoltano, delle informazioni su facoltà che possono scegliere, magari nessuna di loro ha mai sentito parlare di trasduzione olfattiva e a dire la verità, nemmeno io. Buongiorno, prima di tutto buongiorno a tutte e a tutti. Sì, la trasduzione olfattiva riguarda il primo passo per cui noi poi sentiamo gli odori, percepiamo gli odori, quindi nell'aria sono disperse molecole, alcune delle quali quando entrano nel nostro naso, quando inspiriamo, si possono legare a delle proteine, dei recettori che abbiamo proprio nei neuroni nel nostro naso e far partire un segnale elettrico che arriva poi al cervello e in maniera molto complessa ci fa percepire quali molecole sono presenti e sentiamo quindi gli odori più o meno piacevoli, più o meno spiacevoli. Ecco perché per esempio un profumo o anche il profumo legato a un cibo, il profumo delle Madeleine per Proust, ma ne so, il profumo della lasagna che la mamma preparava la domenica per tanti di noi, evocano tutta una serie di emozioni, perché l'olfatto è sicuramente un senso emozionale. Sì, si parte appunto da questi processi biochimici nel naso per arrivare alle parti del cervello, quali ad esempio l'amigdala, le parti coinvolte con la memoria, che tra l'altro l'olfatto ha proprio una relazione diretta con queste parti, mentre altre sistemi sensoriali passano attraverso quello che si chiama talamo per avere una prima elaborazione. L'olfatto ha una via diretta e quindi ci dà immediatamente una sensazione appunto che ci riporta alla memoria di eventi precedenti. Per quanto riguarda il cibo è ancora più importante di quello che solitamente si pensa, perché gran parte di quello che noi solitamente chiamiamo gusto in realtà è olfatto, perché quando noi mangiamo qualcosa sentiamo il sapore di un cibo, che non è solo il gusto propriamente detto, questo avviene sulla lingua, ma le molecole odorose di quello che mangiamo mentre mastichiamo, e quindi dovremmo tenere la bocca chiusa quando mastichiamo, come ci dicono spesso, alcune di queste molecole odorose da una via retronasale arrivano sempre a questa cavità superiore del naso e producono le sensazioni odorose. L'insieme del gusto e dell'olfatto ci dà il sapore, quindi ad esempio uno può fare l'esperimento con una caramella, diciamo al limone, se teniamo la bocca chiusa e il naso chiuso e mastichiamo, noi sentiremo solo il dolce, ma se liberiamo il naso ecco che improvvisamente avremo il sapore del limone, e questo è dovuto all'olfatto. È affascinante. Senta, che tipo di studenti avete alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste? Intanto sono tutti italiani, e che percentuale di ragazze c'è? Certo, allora la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, sebbene si chiami scuola, però in realtà è un istituto post-universitario, cioè è stata la prima istituzione in Italia che ha dato diciamo quello che è il PhD, quindi la formazione di dottorati di ricerca prima che in Italia ci fosse la legge per il dottorato di ricerca. E abbiamo quindi studenti da tutto il mondo. Come da internazionale si doveva dedurre, infatti. Sì. Non so, un 30% degli studenti vengono da varie parti del mondo, dall'Iran, ad esempio, dalla Colombia, dall'India, da qualunque parte del mondo. E la percentuale di donne non è particolarmente elevata. Allora, noi abbiamo tre ambiti di studio principali, che sono la matematica, la fisica e le neuroscienze. Nell'ambito delle neuroscienze, studenti e studentesse di dottorato di ricerca sono circa il 50%, diciamo, metà-metà, mentre nell'ambito della matematica e della fisica le donne sono solamente il 20%. Ma come lo spiega? Perché c'è ancora questa resistenza? Noi, a nessuno è perfetta, ne parliamo da molti anni, ma c'è ancora il dubbio, no, che una facoltà come fisica o matematica sia faticoso o non nelle corde delle ragazze, che è una stupidaggine, ma perché c'è ancora questa convinzione? Sì, allora qui diciamo per arrivare fino al dottorato di ricerca ci sono vari step, per cui da un lato è vero che le ragazze, da un certo punto di vista c'è anche uno stereotipo che comincia quando si è ancora bambine, che già io sento anche alcune volte alcune nonne che dicono ma queste non sono cose da donne, no? Oppure l'altra stupidaggine è ma no, nella nostra famiglia non siamo proprio portati per la matematica. Lei, esatto, sa quante volte l'ho sentito dire. Sì, anche le donne appunto non alle bambine non, ma le femmine non sono portate per queste cose. Allora, questo assolutamente non è vero, e lì bisognerebbe cercare di modificare questi stereotipi. Allora, secondo me in parte si sta facendo, anche perché i mezzi di comunicazione di massa vedo che sempre di più intervistano donne scienziate, anche in questi giorni ovviamente del coronavirus, la maggior parte sono uomini, ma per fortuna abbiamo tante virologhe e anche tante epidemiologhe. Esatto, che vengono intervistate, quindi questo aiuta. Adesso, qui stiamo parlando più già di biologia e medicina, insomma, però diciamo in generale per avvicinare le donne alla scienza è importante anche far vedere degli esempi. Esatto, le role model sono fondamentali, infatti. E io penso che cerchiamo di fare esattamente questo qui a Nessuna Perfetta, e abbiamo parlato con lei, professoressa Menini, proprio perché lei è una role model. La ringrazio per essere stata con noi, buona domenica, e noi a questo punto non possiamo che andare e tornare, anzi, da voi. Sono Anna. Non ritengo affatto rilassante ritrovarsi tra amiche, parlare di vari problemi. D'accordo, voi dite a cuor leggero. No, non è affatto rilassante. Rilassante è semmai dipingere, leggere, disegnare, ascoltare musica in silenzio. Anna, Io invece trovo rilassante chiacchierare con un'amica, anzi le dirò di più, ti dirò di più cara Anna, che nei momenti di maggiore tensione andarsene al cinema, cioè fare una cosa che ti piace in compagnia di un'amica e commentare il film, ha un effetto doppio. L'ho fatto l'altra sera, sono andata appunto a vedere il film di Muccino con un'amica, ero un po' preoccupata, nervosa, perché tutte queste notizie sul coronavirus hanno un effetto anche su noi giornalisti, che ne parliamo poi tutto il giorno. Quando sono uscita, eravamo in pochi nella sala, ma quando sono uscita stavo decisamente meglio, così come spero che la settimana prossima saremo tutti un po' più rilassati e pronti a parlare d'altro. Noi questa domenica abbiamo parlato di una cosa che riguarda il futuro di tante ragazze che possano essere le nostre figlie, le nostre nipoti, e tanti ragazzi ovviamente, perché le materie scientifiche costituiscono una prospettiva professionale per tutti e due i sessi. Noi ci ritroviamo come sempre domenica prossima alle 10 su Radio 24, ma se vorrete mi trovate anche domani mattina, lunedì, come sempre da lunedì al venerdì dalle 8:20 su Radio 24 con 24 Mattina con Simone Spezia. Intanto buona domenica, ciao.